Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, power, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat, you eat the summer. Buonasera a tutte e a tutti da Connettive. Questa sera parleremo del movimento femminista islamico, un movimento che a partire dagli anni 90 si è via via diffuso in tutto il mondo e che rivendica i diritti delle donne a partire da una posizione religiosa, quella dell'Islam appunto. Le attiviste di questo movimento sono tante, abitano in paesi diversi come il Marocco, l'Iran e la Malesia o vivono nelle comunità islamiche dei paesi occidentali, fanno parte di famiglie immigrate o sono loro stesse figlie di genitori immigrati e pertanto appartengono alle seconde o terze generazioni di cittadini europei di famiglie migranti. Tutte, al di là delle differenze teoriche che si possono rintracciare nei loro discorsi sul femminismo e sull'Islam, lottano per i diritti delle donne a partire dalla prospettiva religiosa e pensano che l'Islam possa essere rappresentativo delle donne musulmane. The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails, and she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her old man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Ma analizziamo meglio questo movimento femminista e lo facciamo a partire dallo scritto di Renata Pepicelli, studiosa ed esperta di femminismo islamico presso l'Università di Bologna, intitolato Femminismo islamico e incluso nel saggio Femministe a parole, grovigli da districare, a cura di Sabrina Marchetti, Jamila MH Mascat e Vincenza Perilli, collana Sessismo e razzismo per CRS e DDS Editori. Fin dalle prime fasi del testo, l'autrice ci pone di fronte alla varietà e alla complessità di questo movimento e del pensiero delle sue teoriche attiviste, la cui analisi si origina da una base comune, la rivendicazione dei diritti delle donne a partire dalla prospettiva islamica. Asma Lambaré, esponente marocchina del movimento femminista islamico, sostiene che lo stato di discriminazione e di sottomissione delle donne musulmane non sia imputabile all'Islam, che è invece una verità religiosa e spirituale, ma alle consuetudini socioculturali dei loro stessi paesi. Afferma anzi che il Corano dà tutti i diritti alle donne, sebbene non sia sufficiente leggerlo per verificarlo. Bisogna, a suo parere, invece, partire da una rilettura di genere del Corano, o tafsir, termine che indica questa rilettura dei testi islamici, allo scopo di individuare il messaggio antidiscriminatorio e il punto di vista femminile, messaggio che sarebbe stato cancellato dall'interpretazione patriarcale che ne ha fatto nell'arco dei secoli le élite maschili dominanti. Riguardo al termine femminismo islamico, le stesse attiviste del movimento hanno idee diverse rispetto a se rappresenti o meno le battaglie delle donne nei paesi musulmani. Alcune studiose, come la pakistana Asma Barlas, residente negli Stati Uniti, lo ritiene un termine legato al colonialismo che proprio per questo non sempre offre un linguaggio adeguato per nominare la battaglia delle donne nel mondo. Altre, come la teologa e imam afroamericana Amina Wadud, l'iraniana Ziba Mirosseini e la malesiana Zeina Anwar, si trovano a proprio agio con questo termine perché sostengono che la parola femminismo tragga ispirazione dalle battaglie internazionali delle donne e che l'aggettivo islamico si riferisca giustamente all'Islam. A partire da queste differenze, non solo, considerando anche il ruolo che hanno e che hanno avuto i movimenti femministi laici arabi e quelli che si battono in generale per i diritti delle donne nei paesi musulmani, possiamo comprendere come Miriam Koch, studiosa anglo-americana di Medio Oriente, parli di un movimento femminista islamico fluido, che non offre l'assunzione di identità rigide, ma piuttosto di identità molteplici che si possono impiegare a seconda del contesto e che indicano contemporaneamente l'appartenenza a un movimento religioso e a un movimento di rivendicazione dei diritti delle donne. Un movimento che nel corso dei suoi 20 anni di vita ha cambiato più volte opinione e che è in continuo movimento, che si plasma a seconda dei luoghi e dei contesti storico-culturali che caratterizzano la vita delle donne islamiche nel mondo. Allora, le questioni che affrontano le femministe islamiche sono molto simili, sono varie e simili a quelle che hanno affrontato nei paesi occidentali, per esempio i matrimoni combinati, le mutilazioni genitali femminili, le spose bambine, il libero accesso al lavoro e all'istruzione, la poligamia, la libertà dalla violenza, dalla discriminazione e ancora l'accesso all'istruzione, agli incarichi di potere, al lavoro e poi la questione del velo. Quest'ultima è stata oggetto negli ultimi anni, a causa dello scontro culturale tra Occidente e Oriente, che è stato generato dalle guerre di occupazione in Afghanistan e in Iraq, ha generato un acceso dibattito sia in Europa che negli Stati Uniti, ma se consideriamo il punto di vista delle femministe islamiche, vediamo come in realtà sia un problema che si definisce tale a seconda del punto di vista da cui lo si considera e che sia stato indubbiamente, per certi versi, impiegato a vantaggio delle argomentazioni razziste e guerrafondaie sostenute dall'Occidente contro il mondo musulmano, che viene etichettato indistintamente come incivile e misogino. Basta guardare come si presentano al pubblico, no? Le stesse femministe islamiche per capire come questa questione del velo sia stata abilmente manipolata e alimentata sia da una parte dal tradizionalismo arabo ma anche dal razzismo europeo nel nome della difesa della tradizione culturale da una parte e dall'altro della crociata occidentale contro l'Islam. Ad esempio molte attiviste come Asma Lambaré indossano il velo mentre altre girano a capo scoperto come l'iraniana Mira Husseini e la malesiana Zaina Anwar. Ma le differenze tra le femministe islamiche, tra di loro, non si limitano alla sola questione del velo, ma dipendono chiaramente dalla cultura, dalle tradizioni, dalle consuetudini socioculturali che caratterizzano i paesi in cui vivono, che appunto sono molto diversi tra loro. L'esegesi, cioè la possibilità che stabilisce il Corano di interpretare gli aneddoti e pensieri di Maometto a seconda del paese e del momento storico-culturale che caratterizza quel determinato paese musulmano, è stata applicata più in paesi di stampo laico, come la Turchia, il Marocco, l'Egitto, piuttosto che in altri di regime teocratico come l'Iran, per cui nei primi è un fatto assodato e generalmente condiviso che le donne in generale non siano obbligate a indossare il velo. A differenza dell'Iran, tuttavia, in cui le donne sappiamo sono obbligate a vestire in un certo modo, in questi paesi le donne subiscono fortissime discriminazioni, soprattutto in relazione al matrimonio e all'accesso all'istruzione e al mondo del lavoro. Questioni che riguardano meno le iraniane, che sono legate ad una tradizione più aperta e per certi versi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e l'istruzione, che permette loro di lavorare fuori casa e di ricoprire alcune cariche pubbliche. Ma in altri paesi musulmani, così come nelle stesse comunità che ci sono in Europa, quelle trapiantate in Europa e in Occidente in generale, la rivendicazione di girare a capo scoperto di molte, soprattutto delle femministe laiche, è speculare a quella di indossare il velo come segno culturale distintivo che molte femministe islamiche reclamano come diritto inalienabile di professare la propria cultura e il proprio credo religioso. Molte donne musulmane in paesi come la Turchia, ma anche in Francia, che ricordiamo recentemente ha adottato la discussa legislazione antivelo, in questi paesi appunto vengono cacciate dalle università e non possono accedere ai posti di lavoro se si rifiutano di togliere il turban, cioè il velo. In Turchia in particolare il laicismo imposto da Ataturk, il padre della patria, il fondatore della Turchia laica, vieta alle donne velate, ai loro familiari anche, l'accesso alla carriera professionale e ai posti di lavoro statali. Allora si capisce come le rivendicazioni delle femministe islamiche, al di là della scelta di indossare o meno il velo, siano le stesse tra quelle che che tra loro appunto condividono, e riguardano cioè la libertà di scelta delle donne sulla base della convinzione che l'Islam non sia una religione misogina e discriminatoria nei loro confronti, nei confronti delle donne. Sulla questione del velo, ad ogni modo, proponiamo due letture interessanti. Un libro dal titolo Le donne di Allah, viaggio nei femminismi islamici, dell'iranologa Anna Vanzan, e Il velo nell'Islam, sempre di Renata Pepicelli. Islamico trae le sue origini dalla lotta contro l'apartheid in Sudafrica degli anni 90 e si produce all'interno dei movimenti progressisti musulmani sudafricani, diventando uno dei cavalli di battaglia per l'emancipazione dal colonialismo e dei diritti delle donne di questo paese. È proprio in Sudafrica che è stato coniato il termine jihad di genere, che indica proprio l'impegno delle donne musulmane nella lotta di liberazione delle donne e degli uomini sudafricani. E questo termine, che in origine vuol dire sforzo, è stato rielaborato con l'accezione di guerra santa soltanto di recente, ma in realtà le sue origini risalgono a molto tempo addietro e il suo significato originale, che nella sua forma estesa è quello di sforzo sulla via di Dio, è stato sapientemente e opportunamente ripreso dalle femministe islamiche per indicare la loro lotta per i diritti negati. Per molte femministe islamiche l'adottare unicamente l'idea di femminismo occidentale, etnocentrico per sua natura, che pur fornisce un quadro culturale di rivendicazione dei diritti chiaro e utile, sia alle donne occidentali che a quelle musulmane, sarebbe come accettare un punto di vista che ricaccia le donne musulmane nel ruolo di eterne sottomesse e a cui impone il modello unico di donna occidentale liberata. Forse il femminismo islamico deve a quello occidentale l'approccio critico, teorico impiegato nell'analisi delle tradizioni e dei sistemi patriarcali presenti nelle diverse culture, che si centra essenzialmente sul concetto chiave di patriarcato, ma che, secondo le femministe islamiche, non può e non deve essere disgiunto da altri strumenti di indagine, quali l'esegesi e il tafsir a cui abbiamo accennato prima. I do it for the joy, did it Ci scusiamo per i problemi di audio che ci sono stati segnalati prima e niente, abbiamo risolto il problema e quindi niente, lascio la parola a Valentina. Su come coniugare l'Islam e il femminismo, un'operazione che le femministe occidentali definirebbero problematica o fallace per via del giudizio negativo che un'ampia parte del femminismo laico nutre nei confronti delle religioni e delle tradizioni culturali di natura patriarcale. Risponde in modo molto esaustivo Zeina Anwar, femminista islamica malesiana, animata fin da bambina dalla ferma convinzione che Dio sia giusto. Ha di recente affermato: «Noi nel sud-est asiatico non abbiamo problemi a identificarci come musulmane e femministe, musulmani e gay o musulmani o divertirci allo stesso tempo. Ci siamo stancate di uomini e del patriarcato che ci dicono nel nome di Dio cosa indossare, cosa bere, cosa essere, come essere delle brave musulmane, mogli, madri, figlie. È per questo che lei, assieme ad altre attiviste, ha fondato l'organizzazione Sisters in Islam, concentrandosi sulla ricerca, interpretazione e discussione e sulle modalità di pressione necessarie a cambiare le cose. Ovviamente le organizzazioni fondamentaliste islamiche le hanno rese molto impopolari. Anwar ritiene che non possiamo, in quanto femministe, ignorare la religione quando essa diventa sempre più importante nella vita delle persone. Invoca inoltre una gran collaborazione tra le femministe arabe e le altre femministe in tutto il mondo. L'85% dei musulmani, dice, non vivono nei paesi arabi. All'inizio di quest'anno l'organizzazione Sisters in Islam ha istituito il Musawa, un movimento globale per l'uguaglianza e la giustizia delle famiglie musulmane che reclama l'uguaglianza, la non discriminazione, la giustizia e la dignità in quanto basi della relazione umana. L'accesso a una piena ed uguale cittadinanza per ciascun individuo, il matrimonio e le relazioni familiari basate su principi di uguaglianza e giustizia, in cui gli uomini e le donne condividano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. hungry people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare line, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, no. Talking about a revolution, oh, no. Talking about a revolution, oh, no. Allora, Ziba Mir Hosseini, che è una teorica femminista iraniana che si è trasferita a Londra dopo l'avvento della rivoluzione islamica in Iran, critica aspramente la Sharia, o meglio, l'interpretazione che della Sharia ne hanno fatto le élite patriarcali del suo paese, definendola una legge patriarcale che discrimina le donne, rendendole cittadine di seconda classe e sottoponendole ovviamente al dominio maschile. L'attuale interpretazione patriarcale della Sharia, che dovrebbe al contrario essere la legge dell'Islam, in verità la Sharia, come viene attualmente interpretata, non lo rispecchia affatto, dice Ziba Mir Hosseini. La versione patriarcale della Sharia, che ne fanno molte elite che si trovano nei paesi musulmani come in Afghanistan o in Iraq, è dovuta in gran parte alla reazione dei gruppi tradizionalisti contro le truppe di occupazione che hanno screditato le forze progressiste che erano pur presenti in quel paese e che premevano molto prima dell'occupazione per una riforma del diritto di famiglia e delle consuetudini che regolavano i rapporti tra uomini e donne in quelle società. Diciamo che per Ziba Mir Hosseini la Sharia è stata reinterpretata in chiave patriarcale e che questa situazione a cui insomma in qualche modo ha contribuito l'occupazione che c'è stata dell'Afghanistan e dell'Iraq. Al contrario, la reintroduzione della Sharia in Iran ha fornito nuova linfa vitale alle lotte di liberazione delle donne iraniane, che hanno aperto un dibattito interno all'Islam, accogliendo le istanze femministe al suo interno, addirittura anche del femminismo occidentale. In questo modo, sostiene Mir Hosseini, le femministe arabe hanno intaccato quell'idea monolitica di Islam tanto cara all'Occidente. L'Occidente considera infatti l'Islam un sistema omogeneo e non fa differenza tra i movimenti che ci sono al suo interno, come invece accade per le altre religioni. Non fa differenza anche tra i valori religiosi professati e le organizzazioni religiose che li interpretano spesso e volentieri a loro piacimento. Quindi il risultato è la pratica perniciosa secondo cui una religione, in questo caso l'Islam, viene o glorificata senza che si biasimino gli orrori e gli abusi commessi in suo nome, o condannata uguagliandola a quegli stessi abusi. Ziba Mir Hosseini ci tiene anche a sottolineare un'altra differenza che non viene considerata nel dibattito sull'Islam, quello tra la Sharia e il Fiqh. Con la prima si intende la totalità degli insegnamenti di Maometto, che sono secondo i credenti, la diretta volontà di Dio. Con la seconda invece si intende la giurisprudenza, letteralmente comprensione, cioè la capacità degli uomini di estrarre le leggi dalle fonti sacre dell'Islam, quali il Corano o la Sunna. Cioè, in altre parole, la Sharia, mentre la Sharia dovrebbe essere, secondo sempre i credenti, eterna, sacra e universale, perché diretta emanazione di Dio, la fiqh è umana e soggetta al cambiamento. Però i testi della fiqh, cioè le leggi attuali che vigono nei paesi musulmani, sono stati interpretati in senso patriarcale, così come la Sharia, e spesso vengono intenzionalmente confusi i testi delle leggi con la Sharia e interpretati come legge di Dio. Quindi, concludendo, l'ingiustizia e la discriminazione di genere che procede dalla fiqh dà la possibilità alle femministe islamiche come Hosseini di criticarla come una delle tante interpretazioni dei testi sacri, patriarcali e discriminatori nei confronti delle donne, che pertanto non hanno nulla a che vedere con l'Islam e con i suoi insegnamenti. E vi lasciamo ora a una bellissima canzone di Nina Simone, Zimmermann, e ci sentiamo la prossima volta. Nelle prossime puntate affronteremo sicuramente il tema dell'antispecismo, del femminismo ecologista, delle connessioni fra femminismo, antirazzismo e antispecismo. Una buona serata a tutte e a tutti. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Go to the devil, the Lord said, go to the

Roses.